dovrebbe andare qua, sì. Infatti, va qui in diretta. Adesso vediamo se era loro. Il problema è che loro non si sentono più loro. Vediamo l'audio da dove esce. Allora, dove è finito? No, non così. Allora. Adesso in teoria dovrebbe andare. Tipo l'unica volta anche in cui parlanti USB audio device. Ora dovrebbe andare, ci sentono, però noi non sentiamo loro. Noi non sentiamo voi. Non sentiamo voi noi. Non sentiamo voi noi però. Ah sì, no. Cos'è stato? Non sentiamo voi noi. La pancia di Giulio, che non c'è stato questo rumore. Sentite il rumore dalla sua pancia. La pancia di Giulio. No, non sentiamo voi noi. Scusate, fa. Gli altoparlanti dovrebbero essere quelli del computer per sentirli, no? Sto riguardando la vecchia foto della pagina. Altoparlanti, quello deve essere il computer. Ecco, così vanno a sentirli. Parlate? Ora sentite. Sì. Vai. Oh. Perché cazzo t'ha chiamato Ema? Perché è in giro con 13 studenti e ha trovato la degustazione di un articolo, non sa nessuno. I miei studenti, non riesco a portarli da nessuna parte. Digli di portarli qua. Va bene. Le gusterie, ha fatto tipo il grosso dicendo io conosco tutti. Non c'è nessuno. Che figura di me. Casa, ma non lo sa che è chiusa il lunedì. È la stessa cosa che gli ho detto io. Beh, piccolo chi c'è stasera? Elia forse? Elena? Sì, ma ha detto che non c'è nessuno dentro. Cioè... di lunedì sera, esatto. È strano che non ci sono lunedì sera. Ma i suoi denti. Ok. Ma in generale non c'è nessuno in giro per Bologna lunedì sera. Vabbè, ho dovuto cassare. No, raga, le patatine. Sì, vai. Quali volete? Vai. Riusciamo forse a giocare. Un po' di bacon che sentiamo come sono. La morte che ho preso. Così a caso le ho prese. Sì, ci deve essere una droga. Allora, siamo tornati decisamente alla modalità pietra, oh, e ferro, pietra, e bronzo. Pietra letteralmente. Pietra letteralmente, che c'era pietra. E benvenuti comunque a quello che rimane di Tycoon Sendrelius. Quello che sta cadendo a pezzi. No? Siamo qua con... Cosa succede? Ah, stai facendo le foto alla nostra camera, che tra l'altro non so, non ho idea di come stia venendo fuori sta cosa. Io non vedo catta, sposta la telecamera. Eh sì, scusa. Guardami in diretta. È fatta veramente male, vabbè, no. Ok. Vabbè, fa lo stesso, vedrete. Dai, vedo tutto. Però si sente bene. Allora, vediamo se io riesco a spostare voi, se non altro. Tra l'altro non dovreste andare, Allora, dispositivo, ok. Sì, dovreste andare. Perché sennò non vi sono. Non fate più andare vicino a un blocchetto di carta, sennò lo batte e rompe tutto. Ok. Va bene, allora. Questo è il 23esimo episodio di Coloni, sarebbe in teoria, non c'è il titolo da nessuna parte, ci proviamo a mettere. L'età della pietra. Il titolo lo voglio sapere. Il titolo niente, però andate a vedere. Il titolo è pietra. È l'età della pietra. L'età della pietra. Come faccio io a dirgli che voglio divisi e non voglio uno poi l'altro? Scusa, allora se io dico touch. Clicca su file. No? Che cancro. Scegli a tutte e due. Va bene, allora, comunque, per quello che è rimasto di noi, noi siamo Tycoons and Dragons, da Bologna, io Andrea Giacomo Vecchi, con Enrico. Quello che è rimasto di noi, ci siamo tutti. Esatto, cioè. Ci siamo tutti, tra l'altro, sarebbe potuta essere una bella sessione, esatto. Ma non lo sarà. E Giulio Bosi. Lo chiamo una mini. Poi da Rimini abbiamo Luca Lazzarini, che fortunatamente non vedete nelle facce che sta facendo adesso, e Edoardo Salladini, invece lo chiamiamo da Marsiglia. Ci vedete così in una modalità un po' imbarazzante, dovreste però sentirci in qualche modo, e dovremmo riuscire a registrare in qualche modo. Incontriamo quel mostro che vedo. Ti sente l'audio? Spoiler. Sì. Si chiama spoiler. Non lo so. Vabbè, tanto il computer fa quello che riesce. Non lo so, avevamo sentito prima, si sentiva una specie di roba, ma a me si vede un po' d'osceno, però va bene, ok. Vediamo. Questo è, siamo noi. Vai, pari ce l'hai tu, 10 pari ce l'ho io. 8 pari c'è. Allora, direi che facciamo un riassunto di quello che è stata l'ultima sessione. Vai, catta. Se lo fa uno di voi, catta magari, si ricorda qualcosa. Ah, risalendo il fiume. Ma così l'audio? No, forse sembrava tipo uno stadio. Dovevamo risalire il fiume della lepra bianca. L'avete risalito? Esatto. E facevamo parte di una carovana guidata da Curan e lungo il percorso che andava verso nord abbiamo incontrato un gigante sopra un sasso, da qui il nome della sessione, l'età del nord. E il gigante cosa ha fatto? Ci ha attaccato, ovviamente. E l'abbiamo sconfitto in modo pirotecnico e in un combattimento molto valoroso e ci abbiamo guadagnato c'è stato questo scontro, me lo ricordo. Siamo arrivati dopo questo scontro al capovillaggio, il mio primo PG, quello che porto subito, al limitare della foresta. E il capovillaggio ha intrattenuto una piacevole chiacchierata con Arian e sono diventati super best friends. E dopodiché ci siamo inoltrati nella foresta, dove siamo arrivati in un luogo sacro presieduto da un ent sostanzialmente, e ovviamente ci ha detto molto gentilmente nulla perché ci ha attaccato. E evidentemente stavamo tanto sulle balle che ha deciso di farci fuori senza provare a dissuaderci dall'entrare in questo luogo sacro. Siamo riusciti a sconfiggerlo proprio all'ultimo colpo inferto da Laz mentre eravamo tutti morti e a lui rimanevano 2 punti vita tipo. E quindi una volta che abbiamo desecrato questo posto sacro che era qui, che nessuno gli cagava il cazzo da migliaia di anni, siamo arrivati noi e abbiamo spaccato la pietra che era al centro di questo luogo. Si è spaccata. E in mezzo c'era una fessura. Siamo entrati in quella fessura anche perché sentivamo arrivare una pattuglia di orchi che trascinavano con loro dei prigionieri nanici. Siamo entrati nella fissura e abbiamo trovato 2 porte. Su di una c'era scritta meta e nell'altra c'era scritto viaggio. Ed eravamo in una stanza piena di statue giganti. Ne abbiamo scelta una, era quella sbagliata, e abbiamo dovuto distruggere una statua che si era minata. Adesso non te lo posso dire. Ah, è vero che Shield deve fare la sua parte da solo adesso? Dipende. E dopo quella giusta c'erano altre 2 porte, pericolo e esperienza. Gruppo, ognuno per sé. Anche qua abbiamo scelto quella sbagliata e quindi abbiamo fatto un altro scontro. Finito lo scontro abbiamo preso l'altra e a quel punto c'è stato un momento di riflessione, di filosofeggiamenti. Ah, ora hai visto la tubiola. filosofia. E quindi ognuno di noi ha fatto questo viaggio dentro se stesso per cercare la risposta e adesso Sceo lo rifarà per il nostro contro ogni aspettativa, l'unico a risolvere l'enigma che è stato tutti avete risolto. non è vero, è il primo tentativo, solo Giulio non voleva risolverlo. Non è vero, gli dei sono potenti. Va bene, Sceo. Hai capito qualcosa? Vagamente. Ok. Sei in una foresta. No, ho capito che... Sei in un labirinto. Oh. Questo non l'ho capito. Non ho capito esattamente perché ci siamo recati in questa foresta. Questo... Va bene, allora... Quando voi siete arrivati a Tana dell'Orso, vi hanno dato i vostri compiti e vi hanno mandato... Prima ci hanno mandato a questa torre bruciata dove pare ci fossero delle entità, degli spiriti, vabbè. E questo l'ho capito. La torre di Katta. Ora la torre di Quake. La Quake Tower. Ah, però è un bel nome Quake Tower. Cioè, una bella Q gigante. Tu praticamente, praticamente siete dovuti andare lì perché era quello che vi hanno assegnato come missione. Cioè dovete aiutare gli altri della colonia a far legna e a cacciare. Ah, ok. Siete, vabbè, avete fatto il vostro percorso, poi praticamente vi hanno affidato a... Cioè, il capo della vostra squadriglia nominalmente è Salla, è Philip. E lui ha guidato dei boschi. Democraticamente questo quando è avvenuto? Perché è più esperto. Perché è un guerriero esperto, riconosciuto, e quindi è esperto anche di boschi, quindi sto assegnato a voi come capo squadriglia. Ovvio. Non mancare di rispetto al capitano. Attento, eh. E dopodiché quindi siete andati a missione, cioè missione, cacciare eccetera eccetera, poi vi siete imbattuti, questo non te l'hanno detto ma è abbastanza rilevante in realtà, potrebbe e... Bello, questo è come negli episodi precedenti in cui ti spoiler un po' quello che succederà in questa puntata. Praticamente avete visto una colonna di orchi. No, beh, l'aveva detto fuori dalla diretta. La colonna di orchi con dei nani prigionieri. Nani. Prima di quello c'è stato lo scontro, poi dopo di quello c'è stato quello scontro lì e ora siete entrati in questa grotta. Avete avuto contatto con gli orchi o li avete solo visti passare? No, passare. Ma vi hanno visto? Nascosti perché erano tipo nascosti, erano messi a merda. Okay. Cioè. Eravate nascosti, ok. Sì. E allora... Hai ragione, entrati, però sono una droga. Siete entrati dentro... E poi ti hanno spiegato, cioè è stata la cosa della meta, del viaggio, eccetera, eccetera. Sono state delle strane visioni, ovviamente, però il concetto di base che avete potuto carpire è che non si può raggiungere la meta senza il viaggio o qualcosa del genere, sì. Giusto? Non mi ricordo cosa avevo partorito quel giorno. Che vergogna. E niente, l'altra cosa invece che pericolo esperienza. Pericolo esperienza. Tipo esatto. Quello che conta non è la meta ma il viaggio. No, del genere. Non è esattamente così. Però vabbè, insomma, comunque tu puoi leggerla come ti pare. E... Anche perché ora. Poi c'è la stanza in cui si dice sì. Sì, scusate, avevo scritto, non me l'ho ricordato, però. L'ultima. È quella dove. Con esperienza singola. Ma c'è anche da niente, perché stai dicendo solo stronzate, strano. Allora mi sento, va bene. Sì, sì, la seconda. E... Ok, ora puoi. E tu di fa, loro hanno già fatto la loro parte, per cui entri anche tu e comunque, fai la tua parte. Cioè, dovresti vedere le puntate. Noi, cioè, Verso sì, tutte le volte... Sì, ha detto che l'ultima era difficile da seguire perché alla certa anche lì abbiamo avuto dei mega problemi tecnici. Quindi... Beh, cioè, alla fine. Siete entrati, siamo entrati in questo tempio, chiamiamolo tempio, sì. Insomma questo luogo sacro, sì. E ci siamo trovati in questa stanza con delle statue e due porte davanti. Ma cioè, a un certo punto eravamo su una nave, dentro su un mare di sabbia. No, ma non ho capito, cioè, in gruppo siamo entrati nella porta. Allora, e... facciamo un passo indietro. Si è aperta questa roccia, no? Ok, sì. No, allora. Un passo indietro, perché è uscita la schermata. Eh? Vai avanti, ignoro. Non fare un passo indietro, no, perché sennò esci dalla schermata. Ora vai. Eric Laz ha trovato dentro in questa pietra rotta una sorta di seme, come di un pietra, ma di una pietra strana mai vista. E poi però ha visto che effettivamente si apriva anche una sorta di entrata e siete entrati nel sotterraneo. È praticamente una stanza abbastanza umida con tipo tutte le radici degli alberi che vanno sulle pareti eccetera, però è una specie di grotta. Di pietra. Mm-hmm. Avevate queste due porte davanti, meta e viaggio. Voi avete scelto meta perché volevate arrivare subito alla meta. Siete arrivati in questa stanza dove c'era una specie di calice, o no, di braciere, diciamo. Mm-hmm. Tipo calderone, esatto, una specie di pietra da riempire con l'acqua, e avete riempita con dell'acqua che c'era dopo un po' di reticenza, e non potevate evitare se non di guardare che cosa c'era dentro. Mm-hmm. E però guardando dentro la visione siete entrati nella visione tipo Galadriel. Mm-hmm. Galadriel, scusa. Esatto, solo che la visione dentro era una specie di invece revival di Jack Sparrow. Perché eravate su questa nave, in realtà la nave era la nave delle Baldracche, c'era cioè il capitano, okay. Tyus e tutto, e si stava, diciamo, armeggiando per andare, cioè sistemando tutto per partire. E solo che a un certo punto vi siete resi conto che non stavate andando da nessuna parte, perché tipo la nave era ancorata tipo in un deserto sconfinato. E quindi lì siete stati lì un po' a tergiversare, c'è cioè chi ha ucciso gente per vedere cosa succedeva, e serio? Tipo una roba del genere. E a questo punto siete scesi e andando oltre, poi dopo sono scomparsi dalla vista. Tu sei stato l'ultimo a farlo, e quando sei rientrato, praticamente hai visto gli altri che combattevano contro questi golem nella stanza dove eravate prima. Okay. Però poi i golem sono stati sconfitti. Cioè, tu in realtà eri molto preso da questa visione, quindi non ti interessava molto combattere in quel momento. Vabbè, questo era l'escamotaggio. Vabbè, certo. Però farti ovviamente combattere. Tipico. Anche siete tornati... Non mi ricordo se avevate due porte, siete tornati indietro e avevate le stesse due porte. Ho preso l'altra. Con due nomi diversi. Avete preso l'altra che diceva esperienza, tipo... Exp, c'era proprio scritto. Sì, c'è scritto Exp, allora siamo andati. Exp loot, tipo cosa scegliere? Che cosa avete visto? C'era tipo l'entrata di un tempio, una roba del genere. Ma perché stai facendo tutto il... Scio voleva sapere di più. No, vabbè, ma... Tutti voi vi ricordate qualcosa? Senza i dettagli. Cioè, vabbè, in teoria. Silenzio e imbarazzato. Ricordo quella della nave che io ero sceso. Quella me la ricordo, mi ricordo la seconda visione che avevo fatto. Vabbè. Però. Non volevo tutti i dettagli, era capire che... Io potresti ascoltare le puntate vecchie. Voi non vi ricordate niente, no? Non vi interessava, va bene. C'era sala bloccata. È passato un mese. No, capito, magari comunque qualcosa vi ricordavate, c'eravate anche voi. E vabbè. No, però oggettivamente dai, guarda, neanche tu che l'hai fatta. No, il fatto che, però le altre robe ve le ricordo, magari qualcosina ve la ricordavate, se ve la ricordavate anche voi, non so. Vabbè, posso. No, siamo arrivati da lì all'ultimo step in cui ognuno ha avuto la visione individuale. Quello sì, però prima c'era qualcosa. Abbiamo fatto un'altra lotta col golem. Sì, perché anche lì abbiamo sbagliato porta. Sì, però non mi ricordo la visione che avete avuto, onestamente. Adesso mi ricordo, mi verrebbe bene. Nessuno se l'è segnata, però. Va bene, lo stesso. E vabbè, avete un'altra visione che adesso mi ricorderò. Kafker, può essere. Kafkern. Kafkern e c'era Cabe. Bravo. Sì. È vero. E c'era Cabe, è vero, che vi ha detto seguitemi nella porta. E poi dopo siete tipo andati dentro il fuoco, tipo una roba del genere. Sì, non era una roba particolarmente elaborata. E niente, dopo siete arrivati effettivamente di nuovo a combattere coi golem. Perché avevamo sbagliato porta. Sì, non è che è sbagliato, è un percorso di conoscenza. Di conoscenza. E vabbè, e quindi niente, dopo c'era una porta dove praticamente diceva il viaggio è singolo, tipo è da solo, o qualcosa del genere. Ah, tra parentesi. Qui sono, su queste non sono scritte, sono rune che le capisce solo Eric. Nemmeno questo ti ricordi? Post. Sì, hai letto il libro, Eric. Sulle porte. Allora, a questo punto qua, tu entri. Quando entri, muori. Una stanza sempre di pietra, eccetera. Vedi una persona seduta poco più avanti a te che ti sembra familiare anche se è totalmente incappucciata, si alza ed avanza verso di te e ti fa: che cosa stai cercando qui? No, questa cazzo di voce. Che fai? No, questa cazzo di voce. Ti rendi conto che è la creatura che è dello scrigno con cui condividi la Io posso, cioè sono tipo una visione eterea o posso interagire? Sembra tutto totalmente vero. Salutiamo Ambra. Ciao. Ci segue da Winterland in Glasgow. O ci seguiva, forse adesso non ci segue. Beh, in realtà no, sta ancora secondo me. La monitoro. La monitoro. No, no, guardavo loro. C'ha il chip che io dice. Ti vedo. No, sono solo le 10, sicuro non è una paletta. A quanto pare siamo qui dentro per cercare la conoscenza. Ho chiesto cosa siete voi, tu cosa stai cercando? La conoscenza. La conoscenza di cosa? Dimmelo tu. Ma sei tu che devi scoprirlo. Prendo lo schiglio e glielo tiro in faccia. No, non lo... Forse vorresti sapere qualcosa in più di questo. E tiene lo scrigno in mano. Lo cerco addosso a me. Non c'è. Oh. Vabbè, no, glielo ho chiesto, ce l'ho io. Abbiamo fatto pari o dispari. Ce l'ho. È venuto pari. Abbiamo fatto pari o dispari. No, ti ho chiesto. Ce l'ho. Sì, se la dai. Porca troia, vabbè. Beh, tieni. Ridammelo, eh. Pensi di trovare le risposte qui dentro? Beh, qualcuno mi ha detto di venire al nord. Fai sempre quello che dicono gli altri. Ok, sì. Ma forse... Beh, mi fido dei consigli e mi è stato consigliato di venire al nord. E quindi è stato qualcun altro a scegliere che tu venissi al nord. Beh, l'ho scelto di comune accordo con qualcun altro, davanti a me. Esatto. E chi è davanti a te? Io. Te, mi boh. E quindi che cosa pensi di trovare alla fine del viaggio? Non lo so, un modo per liberarmi di te magari. Che cosa... Perché vuoi liberarti di me? Come si vede questa visione? Entrambi vogliamo liberarci l'un dell'altro. Certo, ma perché? Per non avere uno che mi dice cosa devo fare. Beh, perché entriamo e siamo scomodi in queste condizioni. Sicuramente mi sentirei più libero senza di te. E dopo che sarai liberato di me, che cosa pensi di ottenere? Libertà. Per gli ultra! No! Una vita libera e non inchiodata alla tua presenza. Ma forse per liberarti ti basterebbe uccidermi. Tu sei nella mia testa, dovrei uccidere me stesso. E questo sarebbe un problema. Beh, direi proprio di sì. Ma quindi alla fine del viaggio... Pensi di guadagnare la libertà, ma che cos'è la libertà? C'è chi domandona. Beh, la libertà è non dover sempre per forza dipendere da qualcos'altro. Ok. O da qualcun altro. E da chi non vorresti dipendere? Da te. Tu sei qui non per colpa tua. Non per colpa tua. La persona che ti ha reso e ci ha reso ciò che siamo. E se io fossi una parte di te? Spero di no. Da chi dipenderesti? Cosa intendi dire? Tu non sei una parte di me. E se lo fossi? Non lo sei. E se lo fossi? Sappiamo entrambi perché sei dentro di me. Che schifo. Schifo. Ma forse... Che schifo. E tu pensi... Non l'ho scelto io. Di poter vivere senza di me? Non vedo l'ora. E senza di me che cosa rimarrà? Me stesso. E quindi che cos'è che stai cercando alla fine del viaggio? Me stesso. Cheat. E improvvisamente lui ha la tua faccia. E ti dice... Che schifo. Dice, il viaggio per te è appena iniziato. Poi scompare e davanti a te vedi tipo la porta aperta. Vado. Va bene, ora siete finalmente tutti insieme. Io. E siete in una stanza diversa da quelle precedenti. All'ingresso. Davanti a voi c'è un grande sarcofago di pietra. E niente, per il resto la stanza è sempre un po' umida, con le radici che scendono dall'alto e si rinfondano nella terra. E più avanti vedete una statua, quella che vi sembra una statua di pietra, però si muove. E non è proprio di pietra in realtà, è diciamo che mitologicamente parlando è quella che si definisce una sfinge. Ok. Cioè quindi al momento degli indovinelli ha la coda, no, non mi ricordo di cosa, le zampe di un leone, la faccia di un leone e le ali però di un leone. non mi ricordo com'è, insomma è un leone, mezzo leone, mezzo cosa, insomma lo sapete cos'è una sfinge. Simile come un leone. Simile come, raglia come un leone, ma ruggisce come un anatro. È un mostro con il corpo di leone, testa umana. Non è proprio umana qua. Testa umana. Questa... O di falco o di capra. Bello, mi piace. Facciamo una testa di capra. Non è una criosfinge, talvolta dotata di ali. No, questa è una ginosfinge. Forse me la scrive anche. Dice anche quanti punti per la terra di una femmina umana, di una donna umana, androsfinge. È una ginosfinge qua, dice. Vabbè, insomma. Vabbè, qui andro perché... Vabbè, insomma, è la faccia un po' da donna, ma in realtà qua non sembrerebbe. Comunque, testa umana. Vabbè, donna capra, vabbè. Va bene, insomma, è una sfinge. Ciao, cazzo. Che dice? Corpo di leone, testa umana. Che vi dice? Volta che ci guardo. Benvenuti... avventurieri, o forse dovrei dire coloni. Avete scoperto che cosa state cercando? Noi stessi. No, l'ho appena imparato. Pericolo! Quello indubbiamente. Meta! Touchdown. Forse nel sarcofago potresti trovare qualcosa di utile. Delle armi buone? Chi sei tu e perché ci dovremmo fidare di te? Io sono il guardiano di questo posto. E sono qui per... Allora va bene. Perché ve lo siete guadagnati. Allora, siete arrivati al mio cospetto perché ve lo siete guadagnati. Col vostro percorso. Ma il vostro percorso non è che all'inizio. Un percorso di conoscenza. Ma forse qualcuno di voi ha già capito dove si arriverà. È amica Giulio. All'inferno. Se amica Giulio può essere. Ma... sono amica il dio degli inferi. Voglio vedere se non siete... ancora. Voglio vedere se avete davvero capito e se siete degni di questo percorso. E... quando siete entrati qui forse non ve l'aspettavate, ma adesso avete capito qualcosa in più, non è vero? Pare di sì. Sì, ma dillo prima tu. Diplomazia, cioè che carisma cosa hai? Meno 6. Sì, ma dillo prima tu. Il carisma ho ben 14. Sì, intelligenza so. 8. Hai 14 in carisma? Paladino. La seconda sì. Step, giusto. Forse voi avete capito che cosa state cercando, ma vi siete mai chiesti perché? Perché se l'hai fatto fare tu? Beh, forse alcuni di noi... forse alcuni di noi sono qui per liberarsi... da qualcosa che non li fa sentire a proprio agio nella propria vita. Forse però sì, ma forse c'è anche qualcosa di più in fondo. Qualcosa che va al di là dei singoli dolori, dei singoli piaceri, qualcosa di più puro e essenziale. No. Va bene, vi racconterò. Non so, scusate, il giro turistico che ci sta facendo fare Laz, io non me lo vorrei perdere, fossi in voi. Laz, non so. Non lo so, mi sta piacendo questa cosa. Ma cosa fai, il giro per la casa? Però è bello, mi piace. Sto cercando un posto migliore. No, se intanto ci dici, tipo, questa è la cucina. Bravo, lo spirito della puntata. Va bene. Racconta la tua storia, Sfigno. Vi racconterò una storia, vedremo se avrete forse capito il significato. Molto. C'era una volta, ormai molto tempo fa, un vecchio viandante. Vagava per il mondo esplorando ogni aspetto della vita, ogni luogo, ogni creatura, ogni concetto e pensiero. Grande era la sua sete di conoscenza e immenso il sapere che da lui accumulato. Vabbè, lo sto leggendo, cazzo. A tal punto da dispiacere gli dèi, che non perdevano occasione per canzonarlo, poiché nonostante tutta la conoscenza e il potere da lui acquisito, mai avrebbe potuto sovrastarli, mai avrebbe potuto provare qualcosa al di là del loro sapere. E fu allora che, dopo tutti quegli anni di girovagare in giro per il mondo, comprese. Avete capito, no? Avete capito cosa fece? Io non stavo ascoltando. Vuoi guardarti il repeat, se vuoi dire? No, vai. Un po' ho sentito. Avete capito come riuscì a sovrastare gli dèi? No. Diventando dèi a nostra volta. Bravo. Io sono proprio quella la risposta. Morendo? Molto bene. Vedo che c'è qui chi ha compreso il sentiero tracciato. Ciò che il Dio non può fare, l'uomo può, e solo l'uomo può essere Dio di se stesso. Tan, tan, tan. Ma lasciate che io vi dia una mano in questo, che vi aiuti in questo processo di conoscenza. E ora? Questa è la spinge che parla? Sì. E ora mi tirate tutti un bel iniziativa, che era quello che in realtà volevate fare. Ragazzi, inauguriamo il dado nuovo. Osservalo, osservalo. Guarda il mio dadino. Guarda il mio dadino nuovo. Cacciati. Allora. Questo l'hai capito, Lars, che c'è iniziativa? Sì, questo l'hai capito. Sto facendo altro. Non combattere, vuoi combattere? Che non ha avuto tempo, cioè la preparazione della sessione è stata veloce, non ha avuto tempo di farle prima queste cose. 11. Allora. No, infatti, sono messo troppo poco verso. 15. Allora, aspetta, fermi tutti. Ok, catta 15. Giulio mi ha detto 11. Sceo mi ha detto 14. 14. Comunque, Vez, se vuoi, Salla? Questa non è una gag, c'è un'applicazione per lo smartphone che tu inserisci i nomi dei giocatori, le iniziative te li mette in ordine. Ah, vabbè, amici e nemici, anche i punti feriti se vuoi. Amici e nemici si chiama. No, ci ha le attiche. Pensavo il nome della. No, non ce l'ho più. Sta prendo, dai. Ma però è carino, metti tutti i nomi, le iniziative te li metti in ordine. L'ho detto 4 volte. Non ti sento, scusa, dimmi, ridillo. 8, ok, dai, su. Dico 8 volte. Ho capito, se parlo anche con altra gente, sì. Siccome dici solo stronzate, il mio cervello processa prima le altre informazioni, scusa. Non è tipo un più 5 nell'iniziativa, un più 7, no? 23, ha fatto 4. Giulio l'ha detto 4 volte, quindi ha fatto 4. Va bene. Un attimo. Ok, sta a Salla Filippo. Sì, un'altra però, cosa carina. Se nessuno mi ha attaccato, un'altra cosa carina è questa. Nessuno ti ha attaccato. Allora niente, faccio un passo indietro. Nel dubbio, metto fai un critico, un fumble. La porta dietro di voi è corpo a corpo, da lancio naturale o incantesimo. Mi avvicino alla porta. Ok, un po' così. Bello. Carino. Violento. Ok, sta a Quaker. Mi arrivo. Preparo a schivare eventuali colpi con la dodge action e mi dirigo in faccia al pericolo sprezzante. Vado verso di lei. Ok, te ti metti davanti agli altri. Sì, ma davanti a lei. Ok. Non so quanto è là, però faccio i miei 30 piedi. Mm-hmm. Ok. E... sì, sei davanti a lei. E ok, dopo sta... C'è il cane. Ah, oddio, sempre con sto cazzo di cane. Compagno animale. Sì, va bene. E... dico al cane di aiutare l'as. Azione per schivare. Che hai un pirro alla CA. Sta a te. Gli altri hanno svantaggio. Ah, hanno svantaggio qui. Lo attacco, però vuoi che faccio? È chiaramente ostile, sì. Con cosa stai attaccando? Con i miei pugni, che sono un'arma magica. Ok. E... ma quanti punti ferita hai in bagaglio? Io? Bagaglio? Sì. 51. Ah no, cazzo, devo tirare, scusami, Vez, sono salito di livello, l'unica cosa che non ho fatto è tirare il dado. Fantastico. Pardon. Tira, lo tiro, guardo. Oh, Dio. Cosa mi mancava? Lì che avevo il pallino che mi mancasse qualcosa. Ho fatto 3, devo... poi cosa faccio? Prendo una 5 media? 5 più una risoluzione. Okay. Quindi 7, vado a 58. E sì, no, non spendo un cazzo, attacco e basta per ora. Primo colpo, 20. Presa. Vabbè, cazzottone. Vabbè, il cantone. 5 danni, il primo, poi secondo. Aia. Non ho capito quanti danni, scusa però. 4, 5, scusa. 5 il primo? 5 il primo. Ok. Poi il secondo ho fatto 11, non penso prenda. 11 non prendi, no? Ok, il terzo critico. Proprio oggi non c'è la scatola. Non va a confermare. No. Tira il doppio dei dadi. Vai. Esatto. Se hai degli effetti che ti aggiungono dei danni, usali perché vengono raddoppiati anche quelli. No. Quindi anche la. La forza no, cioè, sono i dadi di più. Okay. Cosa sta succedendo nei nostri luoghi? 8 danni col secondo. Non so, sono pensati. Non è il terzo, sì. Scusami, col terzo. Sì, col secondo comunque ho colpito. 8 danni, beh. 8 danni e poi spendo. Scusate, spendo un punto chi per fare altri due colpi. Sì. Sempre disarmati. Fumble? Sì, uno. Okay. E l'altro invece 10. Ma vaffanculo. Utile questo punto. Punto chi ben speso. Chi? Chi? Stavolta davvero. Ah. Ok. Va bene. Quindi 120. Ok. Quindi hai fatto 5 più 8, giusto? Basta, fine. Ok. Beh, 5 attacchi ho fatto 13. Beh, sei lì davanti, quindi a sto punto. Giusto? Vabbè, vediamo un po'. Chi di ventello colpisce? No! Quanto hai di classe armatura tu? 17. Così c'è scritto. L'altro non ti colpisce. Però uno è critico. Pensando. Vediamo fino a dove si spinga. Quanto ci hai pensato a questa? Ah no, l'avevo impegnato prima. 20 danni a Sceo. Di che sta tipo? A di tipo che gli tira delle magici o robe strane. No, gli spara contro delle unghiate. E spara le unghie? Yes. Sta a direi l'unico che non ha. Ah no. Se... Tra l'altro manca Giulio. Giulio, sì. Ecco. Mi ricordavo bene. Ecco. Giulio. Ha fatto ancora meno. Pallino che sono andato a controllare perché mi ricordava se... Invoco un'arma spirituale. Di raffica di colpi, cioè i due extra, colpiscono... Quindi ci sono tre cose, una delle tre cose scelte dalla lista che posso imporli, cioè deve fare un tiro salvezza sulla destrezza o cadere, un tiro salvezza sulla forza, altrimenti lo spingo 4 metri di là, oppure non può avere reazioni nel prossimo turno. Però devo colpire con gli unici due con cui ho fatto cagare. Faccio 14. Per colpire? Non preso. No, niente. Cioè, arma spirituale questo? Sì. E allora poi con l'altra azione... Faccio un paio di passi indietro e faccio... Che livello è arma spirituale? Primo. È un no, sì, il primo. No, è il secondo, ma l'ho lanciato al terzo. Ok. Tanto resta. È arma spirituale del secondo. Sì. E... tiro salvezza sulla destrezza, quindi... 17. Sì. Cerca. Per... evitare le fiamme sacre. Ok. Passa. Passa. Aspetta, ma i tuoi dadi hanno anche i numeri bassi. Uno l'ha preso. Allora niente. Non prende niente. Non prende niente. Va bene. Sta a l'alza. Quanti danni ho subito io prima? Avevo 20. Ho subito allora, 20 danni. Sì. Salute. Sì. Allora. Ho fatto 20 e 18, quindi è critico. Vai. Non sto scherzando. Lo screen. Bassa lo schermo. Come fa? Aspetta. Ah, perché lo stai facendo con l'applicazione? No, sono su internet, quindi vedi schermo. Va bene, dai, ti credo, dai. No, aspetta. Vai, ti credo, no, dai. Tira i danni. Lo vedi? No, non lo vedo, non lo vedo, tira i danni. Sì, lo vedo io. Eccolo. Ok, quindi il saldo può confermare. 20, allora. 18 più 0, totale 38. Non ho messo un magnificatore. Vai. Entrambi allora. Prendono, vai. No, io ho solo un attacco, era il vantaggio questo qua. Ah, era il vantaggio, ok, allora 20. Sì. Allora. Ma cosa stai facendo? Con cosa stai attaccando però, scusa? Con l'arma quella rossa che non so cosa fa, quindi me lo devi dire tu anche. Ah, ci siamo, Ha crittato con dopo 10 sessioni che ce l'ha. Va bene, dai, evitiamo, forse non ci arriva, vabbè, ci faccio anche ci arrivavi, dai, ci sta. Nel senso che non so se eri così vicino, però ci sta, dai, facciamo che c'eri. E l'arma fa, te l'avevo detto cosa faceva, no? No, non me l'hai detto, mi hai detto che fa un effetto col critico, non mi hai detto cosa. Aspetta, allora dammi un attimo che te lo recupero. Vicious più 7 danni aggiunti. Più 7. Cioè, ai danni che fai col critico aggiungi 7 danni. Allora, io ho. Ma schifo la mia roba! Ma schifo! Sì, allora, il D8 che è quello dell'arma fa 2 danni, quindi diventa un 4. I D6 del furtivo quindi sarebbero 10. Vengono 38 per 2. No, scusa, 10, 38 più 2, 42, più 7, 49, più 5 del danno, 54. Mamma mia. Totale. Tornano i conti? Sì, cazzi. Ho schifo. Sì, fa schifo. Io avrei fatto 47. Quanti danni hai fatto? 54. Che fa un attacco della Madonna, che è un critico dell'arma. Che è più o meno un mio attacco normale. Esatto. Ma schifo! È più o meno tutta la mia campagna. tu eri l'ultimo, giusto? Giulio? Sì. L'ho già fatto, sì. Ho fatto tutto. Allora. Cioè, quindi aggiunge più 7 danni per un critico. Le fiamme lì che. Di che livello sono? Sono un country. Ah. Beh, questo è vale. La sfinge. Si arrende. Ah no, ma tu sei lì però, adesso che ci penso. Tu chi? Las. Sì. Gli ha fatto male. Sono anche lì. Esatto. Quindi ti spara. Il mitragliatore. Una volta fallisce. E la tua classe armatura? 15. Una volta ti becca. 14 danni. Giulio. 14. Va lui. Ah, potevo forse aspettare. Noi siamo messi, abbiamo già combattuto. Ma no, io sono full. Sì, tu sei. E con l'altro ti fa 10 danni. Quindi a quanto va? A 24. Di mezzo al secondo con la reazione. E 29. Sta a. Quaker. Ok. Non è saltato sallo. No. Ah sì, sì, no, hai ragione. Philip. Vai, vai. Ah. E ora, vabbè, gli do un certo punto, visto che ha attaccato tutti. Mettiamo un'altra patatina. Facciamolo. Se volete sì. Prima una freccia di avvertimento. Per me no. Freccia di avvertimento con poderoso. Dai un avvertimento. Ti avverto. No, aspetta. Aspetta. Ah no, ok, torno tutto, ok, posto. 23. Spresa. E 23 e sono. Cos'è un D8 la freccia, no? Sono 13. No, di più. 18 danni. Glieli faccio? Forse. Un attimo. La tua è un'arma normale, giusto? Sì. Allora, apri per favore. Allora, un attimo solo. 18 hai detto? Sì. Ok. Sì, qualcosa non prende. 18. Qualcosa se lo prende? Sì. Allora, boom, gli tiro un'altra freccia. Aspetta, ma bello tutto danno. Allora, 6, 11, non colpisco immagino. No. E allora ciao. Ciao. Sta a Quakert. Come osi abominio della natura infierire sulle fragili carni dei miei smidonati compagni. Ogni riferimento è puramente casuale. Quindi chissà se l'avevo usato la volta prima. Ah, la devi sapere. In teoria no, qua non l'ho segnato. Avevo fatto il quadretto bianco proprio per essere cliccato in questo modo. Quindi uso il giuramento dell'inimicizia che mi dà vantaggio agli attacchi che faccio contro di lui per un minuto. E poi lo attacco. E non l'avevi usato per recuperi quando riposi? Sì, ed era vuoto il quadrettino che avevo disegnato per cliccarlo quando lo usavo. Più 11, 26. Allora. Vabbè, facciamo un colpettino, no? Com'era? Di avvertimento. 12 danni magici. E poi facciamo il secondo attacco. 16. Non prendo. E il cane dà vantaggio all'as. Yeah. Ok. Bau bau. Sta Sirro. Io rifaccio il turno di prima. Però secondo te ha senso provare a stordirlo. Ha sempre senso provare a stordirlo. Se colpisco faccio colpo stordente. Tanto prima colpisci. 10 col primo? No. 10 col secondo? No. Cambiamo dado. 14. Non prendi? Spendo il punto key per fare. Scusa, ti devo la matita. Spendo il punto. Come fai a fare così basso? Perché non stai andando dentro la scatola? Perché non c'è la scatola. Ma non hai capito che siamo andati. Ho capito, non c'è nemmeno la telecamera di base. Cioè... Basta cambiare dado, esce un 20 naturale. Vai. Allora, siccome è uno dei. Dei colpi con una massica di colpi che finalmente colpisce. C'era la scatola, però è saltato tutto, quindi non è che sono cattivo. Non posso fare colpo stordente perché ho già fatto. Tanto tu, Las, non tirerai mai più nella scatola. Che problema c'è? Esatto. Mai più. Ma Las muore in questa sessione? Se lo uccidiamo, sì. Ma quasi quasi ci avrei... posso... Dove sarebbe l'unico a raggiungere la conoscenza? Posso provare colpo stordente su un colpo di raffica di colpi, sì. Quindi provo a fare questa super combo esagerata. Spendo un altro punto key. E con questo l'ho colpito, sti dico i danni, ma deve fare. Ma lo puoi dire dopo aver colpito, sì. Ok. Sì. Guarda come l'hai gettata, anche in piedi. Sì, infatti siediti, anche perché il microfono non è che lo posso spostare. Vabbè, scelgo. Ma perché lì, scusa. No, era per farmelo così, perché ho una lista da cui scegliere. Vabbè, non può fino alla fine. Mio prossimo turno non può effettuare reazioni. Ok. E poi deve fare un tiro CD sulla per il colpo stordente. Cosa deve fare? Un tiro sulla costituzione. Quanto deve fare? Quanto deve fare? 14. Passa. Vabbè, tanto. Immaginavo. Vabbè, comunque intanto fanculo ti dico i danni. Vabbè. 11 e poi ho il secondo dei due colpi disarmati. 19. Presa. 5. Ancora mangiando. Chi? È un animale. E ho adesso? Cosa fai? Ho mangiato anche la pelata. Non fa niente, gatta, cazzo vuoi? Non è il tuo turno. Via. Ho sentito. Cosa dovrei fare? Di ingaggiare, vai. No, non ha bisogno perché hai appena mangiato. Cosa? Non ti seguo. Cosa gli hai appena fatto? Cosa vuoi dire? Una raffica di colpi, cioè un attacco. E che cosa gli hai provocato? Diglielo, se non ci arriva. Lui non può più fare delle reazioni. L'attacco d'opportunità è una. Ah, quindi dici di allontanarmi? Sì. Non vale, è già stato il sistema. No, beh, ho capito, però... Sì, vabbè, tanto si sposta. Tanto ci siamo noi addosso, se si sposta allora becca da loro. Va bene, mi sposto allora. Va bene. Spostandosi non potrà che dover colpire il ladro, immagino. Per me aveva senso che restavo a prendere un po' di botte, voi che siete già mezzi morti. Hai detto... 15 la classe armatura o 16? Ya. Yeah. 15. Massina. Attenzione a averla così bassa. 11 danni. Di mezzo. Si fa un credibile. Ah, vabbè, ma tanto si sa, tutte le volte gioco così, vecchio. E altri 10 danni. 10 danni 1. Sei 14, no? Allora. Tanto cosa si posso fare? Niente, te lo dico. Ormai è routine questa roba. Giulio. No, intanto attacco con l'arma spirituale. 16 più 9. Presa. Mi faccio 2 di 8. Mi sarà ruggito da spingere. Ma la faccia da donna, non penso ruggisca. No, la faccia da leone, questo è quanto pare. No, ha detto che ha la faccia da donna. Donna le colpe, quindi ruggisce, quindi ruggisce come una donna. Non è una donna, adesso parli del tutto. Ruggisce come una donna. Beh, se ha le ali da leone. Stai pensando a qualcosa? Avevo letto un indovinello carino, ma adesso mi viene solamente un indovinello. 17 danni. Ok. Poi boh. Mi avvicino a. No, l'ho già fatta la bonus action, non posso fare questo. Mi avvicino a alla a Eric e lo curo. Questo è un altro turno, Rello. Lo curo. Vediamo, incantesimi di primo livello li ho finiti, quindi devo usarne uno di. Boh, siamo uno di terzo. Ho sbagliato, vabbè, considerate i tre attacchi fatti in modo diverso. Ti curo di 10, 15, 20. Cioè non di 10, poi 15, poi 20, eh. Totale 20. Ah, peccato. Vabbè, adesso non è che sono me stesso. Non è che sono io, tecnicamente. Non posso massimizzare le cure, posso massimizzare i danni da tuono fulmine. Ok. Allora, aspetta che te lo condivido. Che cosa fai? Tocca a me, no? Non esattamente. Scusa, lo posso dire solo io? Lo so. Però la sfinge si teletrasporta. Wow. Ed è davanti a Philip, che è in fondo alla stanza. Ciao. In una nuvoletta rosa. Quanto è grande sta stanza, scusa? Esattamente quanto serve. Direi... tu quanto hai di corsa? Forse ci puoi arrivare con due colpi. Beh, io ho anche il doppio movimento, so per questo. Adozione bonus per muoversi ancora. Certo. Ci puoi arrivare. Però non è ingaggiato, con qualcuno? No. No, è da lui. È da fine, no, ma non è ingaggiata con lui, non ha attaccato. Allora non attacco. Basta che sia di fianco, non necessariamente. Quindi passi il turno. Quindi passi il turno? Sì. Ok. Non ho capito perché, ma va bene. La sfinge attacca. Perché tanto non faccio furtivo. Hai vantaggio, coglione. Dai. Ho capito, ma sono classe armatura, Philip? 16. E poi potevi anche scappare perché tanto non può fare attacchi di opportunità. 14 danni. Io non se n'è andato. Vabbè, ma tanto Filippo ha 89 punti ferita. Se n'è andata lei. Però dico, se lui andava, attaccava e se ne andava, poteva fare. Lasciate mancare Filippo. Cioè. Filippo, sta Filippo. Sì. Corpo a corpo. Corpo a corpo con la sfinge. Allora io lascio cadere l'arco. Poi scappo. Beh, tanto non può fare reazioni. Non può fare reazioni. Quindi tecnicamente. Non può fare reazioni? No. Ma io non lo so. Oddio. Bravo. Effettivamente bravo. Ha ragione. Come faccio a saperlo? Però in teoria è quello che avresti fatto, forse, questa cosa qua. Nel momento in cui scappi lo scopri, perché non ti arriva un ceffone. Effettivamente è vero, non lo so. Dai, avrei tirato fuori scimitar, avrei attaccato. Coraggioso, vai. Vabbè, se io vedo la scena, però... Fai quello che ti chiede. Domanda. Se io vedo la scena, posso dirgli scappa, tanto, cioè, posso urlargli tipo scappa. Ma boh, ma se fossimo degli altri gli diresti scappa, no? Solo perché Philip, che normalmente scappa via, gli diresti no, scappa. Se capisco che è una situazione di merda, scappa, da bravo, solo, uno Dio. Contro uno, e magari uno tipo allontanati. Ha 75 punti ferita, Philip. Vai, è meglio. Perché lo prende lui le botte. Ma allora, ma va. Vai, sfinge! Quindi lasci andare il... Vai, bella! Io non ho capito perché tutti ce l'hanno con me. Comunque attacco. No, prima cambiamo con te, che sei quello che ha full vita. Non pensavo avesse così tanto. Allora, Prima scimitarra. Oh, rega, cioè, ogni tanto ci sta che il mostro colpisca uno di voi, eh. So che è una roba un po' fuori di testa, ma. Sei tranquillo. Prima scimitarra critto, la seconda non colpisco. Cioè, esatto, qua. È il quarto critico che fate oggi. Non ne faccio nessuno. Ok, vai. La terza scimitarra faccio 28. Aspetta, fai intanto il critico. Allora, col critico ci piazzo sopra un trip attack. Quindi sono la scimitarra a finestra. Sì. Quindi posso attaccarla con la destrezza. Ma raddoppio anche i dadi del coso? No. Ah no, in realtà del danno basso. Come no? Non raddoppio tutti i dadi. No, i dadi sì, il più 5 tipo del danno basso. Esatto, quello. No, però i dadi dell'attacco della manovra sì. Ah. Boh. Scusa, raddoppio tutti i dadi. Boh, vai. Non c'è scritto. Catta. Cosa devo fare? Catta è sempre player friendly. Sì, i dadi raddoppiano col credito. Vai. Perfetto, grande catta. Allora sono 10, 16, 21 danni. E con la seconda che ho fatto 28, sì. E sono altri 7 danni. Ok. E poi deve fare un tiro salvezza sulla forza. E la CD è 11, 16. Non lo passa. Cade a terra. A questo punto uso l'action surge, sì. E la rilegno di legnate. È allora, vantaggio perché lui è prono. Esatto. Allora, con l'azione, ho ancora l'azione bonus. Ma anche una large puoi buttare giù? Sì, da large in giù. Ok. Oh, Philip legna. Vai, legna Philip. Sempre. Allora, i primi due attacchi sono... Il primo è un 19 più 8, direi di averlo colpito. Il secondo è invece solo un 6, sì, un 14. 14, cosa stiamo parlando? Danno o colpire? La armatura. Ah no, 14 no. Ok, e il terzo... Sono 20, ma non naturale. Sì. Quindi sono 2 di 6. Quindi faccio 4 e 4, per cui sono 14... No, se scusa, ho detto una puttanata. Sono 9 danni ogni attacco, quindi 9 più 9. Ok. Allora, la Sfinge muore e... scompare ridendo. No, riappare dove era prima, ma in forma di statua. Digli una fase del tipo: ecco la tua conoscenza, ora finirai tu il percorso. Cioè, ci sta, mi rispondi. No, Filippo non lo dirà mai. Il coperchio del sarcofago cade rumorosamente per terra. E la porta dove siete entrati si apre. E dipende se ci guardate. Avvicina e guarda cosa c'è dentro al sarcofago. Cosa c'è dentro al sarcofago? Cosa c'è dentro al sarcofago? Dentro al sarcofago. Ma fermo, potrebbe essere pericoloso. Filippo, guarda. Qualcuno è un animale che potrebbe guardarci per noi. Guardiamo tutti il cane. Lui scappa. Dentro al sarcofago. La lucentezza di centinaia di monete d'oro e altro tesoro che però vi darò la prossima volta. È troppo pesante per poter trasportare. Però sì, effettivamente è un po' pesante da poter trasportare. Prossima volta ve lo do meglio. Quando il master non si prepara le cose, vuole merda, com'è che si toglie sto persona? Dalla vita ci sono molti modi. Spaccare la Sfinge è sparita, ha detto. No, hai detto che sei ricomparsa in estate. Ah, scusa. Ah, spaccarlo di quanto meno il naso. Vuoi andare lì e spaccare? Va bene. Giulio, adesso vedi Giulio che di solito si bagna col sangue del sole, inizia a bagnarsi la faccia così, con la polvere del naso. Senti, tipo, mentre la spacchi senti una voce rimborbare nella caverna e senti... Posso sprecare i miei due channel divinity per farlo in maniera più figa? Tipo un canale. Definisci più figa. Tipo gli do la martellata e si sprigiona tipo il rumore del tuono, tutti i fulmini e questo si spezza. Giusto scenografica. Ok. Ok, usiamo i miei channel divinity per sta roba. Allora, finché non fai danni ad area puoi fare tutto quello che vuoi. Va bene, dopo che l'hai spaccata sotto... In maniera figa. In maniera fighissima. Sotto la sfinge vedi un grande simbolo di un labirinto con un punto centrale. È scritto, voi siete qui. Ben segnato. E... Non so se so il bene da mandarvi. Hello old friend. Ma magari ho spoilerato qualcosa. Tra l'altro oggi c'era, ma tu l'hai già vista? No. Okay. La voglio guardare adesso. Mi incuriosisce questa mappa. Si può copiare su un pezzo di carta? Sì, puoi. È la mappa del labirinto? Sembra essere semplicemente un simbolo di un labirinto. Però potrebbe essere un simbolo di qualche divinità, un test, intelligenza, religione, vai su intelligenza, anzi fammi religioni, ho fatto 4, fate una bestemmia su conoscenza religione, 4, 7. Non ti dice molto questo simbolo. Cioè è il simbolo di un labirinto, però non nulla di specifico, sembrerebbe. Ma è inciso nella nel pavimento, nel piedistallo, insomma. Sì. Ci incido sopra il mio simbolo. Spreco un altro incantesimo per farlo più fuori. Veramente? Spreco uno di secondo, ho finito gli incantesimi di secondo. Mi è rimasto solo uno di terzo. Allora, tirate iniziativa adesso. Okay. Se facessimo un riposino. Il tuo simbolo appare forte sopra il labirinto, ma poi si come sgretola e scioglie, lasciando il simbolo del labirinto. Ma non ti ridà lo slot. Riprova. Con quello di terzo, poi però ha finito. E quando però lo fai, hai come un flash di un tipo labirinto. Di una diciamo una caverna con pietre di vari colori. Cazzo, pietre mi stanno nella neve. Il nome è appunto il labirinto di siepi dell'Overlook Hotel. No, perché io l'ho già visto varie volte, ragazzi. Shining. Perché no, è proprio il labirinto di Westworld. Tutte le volte che ho un flash, okay. Io vedo ste cazzo di pietre. È al cielo aperto dentro una caverna. Nella neve. La neve può essere sei anche... dentro una caverna, però nella neve. Però diciamo, attorno a te, oltre alle pietre colorate, c'è la neve. Però sei dentro, sei io. Ma come tante pietre proprio luminescenti. Sì, ma l'avevo già vista una cosa sì. L'ho vista altre volte. E le allucinazioni. Ma se prendiamo un po' di tesoro, so che non l'hai preparato, giusto per capire, se non succede niente, se ne prendi, no. Cioè io provo a prendere qualche moneta e non succede niente. Vieni maledetto e diventi uno scheletro quando esatto. È vostro, se volete... Allora, vabbè. Lo prendiamo no, poi. No, non voglio sapere cosa no, c'è. No, ve lo posso sparare, poi vi volevo aggiungere alcune cose. No, fai la prossima volta. Preparatelo con calma, se non c'è problema. No, così Laz forse era più contento. Laz. No, così. È contento così. Lasciagli la sorte. Non sempre darmi il butto. Tanto ormai a sto giro volevo darti un'arma fia, però hai rotto talmente il cazzo che ti faccio trovare una cosa inutile. A sto giro, visto che sono stato io il primo, non può fregare monete d'oro, sento che ci incrociamo. Sai cosa vorrebbe là, secondo me, tirare una scatola? Assolutamente sì. Va bene, usciamo dalla stanza. Ok. E... vado per primo. Sì. Hai distrutto la stanza, provate a incidere il tuo simbolo come cattiveria. Ho spiegato tutto quello che mi era rimasto. Usciamo. Qui è un cunicolo che però non ha altre direzioni. Ma è buia la situation. Tra l'altro cose stupide non potevo usare l'inspiration, ma io ho un'inspiration da tipo all'inizio che non è cosa. Sì, ma tanto esatto non le avete tutti, ma non usate. Allora, in realtà no, facciamo così. Prima di uscire, mentre avete preso il tesoro, vedete come un vecchietto che esce dalla porta. Quindi entra nella stanza? No, esce dalla stanza. Cioè tipo coda dell'occhio lo vedi uscire? Sì. Che era nella nostra stanza e adesso esce? Sì, però prima non l'avevate visto. Esatto. E quello chi è? Doesn't look very good. Ehi tu, vieni qui. È uscito ormai però. La mia voce la può sentire lo stesso. Sì, sicuramente. Però. Vai bello, inseguilo. Uff. Vai a inseguire? Mando il cane all'inseguimento e poi gli vado dietro. Il cane lo insegue. Lo vede vomita, sempre rivolta negli occhi. Questo unicolo è un po' difettoso. Con tante varie, diciamo, biforcazioni, lo vede sempre più avanti, ma non riesce mai a raggiungerlo. Ok. Fino a che non arriva alla sala dove c'è il braciere, e più avanti c'è l'entrata poi della grotta. Da dove siamo entrati noi? Sì. E il vecchio è lì? Il vecchio non c'è. No. O meglio, lo vede salire su in realtà. Va bene. Beh, prendiamo un tesoro e usciamo. Se ripercorriamo il percorso che ha fatto il vecchio e usciamo da dove è uscito. Siete fuori. Quando siete fuori, a pieno gli orchi, sentite un rumore come di pietra che però si accartoccia, una cosa strana, e quando vi voltate la pietra è tornata integra. Siamo usciti tutti, vero? Prova a colpirla. Ma Giulio cosa è diventato? Lo spacca tutto. Demolition Man. Vai Ralph. Colpisci la roccia. Però non si. Non sembra sgraffirsi. Ce l'ho per assegnare una roccia in fango. Che livello è? Bene. Niente. Possiamo andare. Ho finito le idee. Dobbiamo. Vabbè. Poi finito gli incantesimi anche. No, ne ho uno in terza. Salite tutti di un livello. Decimo. Tutti intendi. Anche tu. Povero. Cazzo. Oh, raga, io però stabilisco un nuovo record. Salire di due livelli nella stessa sessione non l'ha mai fatto nessuno. Quello precedente in teoria era della sessione prima. Qua, bla bla bla bla. Mamma quanto parlo. Penso che noi siamo al decimo. 8, 10, se quel numero pari uguale. Tranquillo, scelgo, sono a 9. Davvero? Perché? Sì. Perché? Perché? Perché ho saltato 26 sessioni. Ah, è vero, quando c'è stato il pandemia. Ah, è vero. Quando c'è stato la crisi del Marsiglia Gate. Esatto. 6 più 9, 102. Però abbiamo ancora i 14. Sì. Fammi tirare. Cosa tiriamo? Di 10? Sì. 10. Ah, giusto? 10. Aumenta la vita. O comunque l'AS, cioè praticamente non. Nulla l'ha potuto stimolare. Non l'ha potuto stimolare il combattimento. Non l'ha potuto stimolare il tesoro. Non l'ha potuto stimolare il salire di livello. Cioè ormai non si può fare niente. Allora. Ma è tipo videogioco. Che figata, io semplicemente non voglio giocare. Ma è tipo videogioco che si torna full. Il combattimento me l'hai spostato. Il tesoro no, non è chiarificato conto. Da nessuna parte. Tipo... Adesso non posso, non ho la scheda, non posso salire. Perché cazzo faccio? Sì, ma è tipo minuto. Io in una sessione di tipo un'ora hai fatto un combattimento dove hai fatto il critico con la tua arma e hai fatto più danni degli altri. Hai preso un tesoro da paura che vabbè, non sai ancora quant'è, però è grande. Non so e sei salito di livello. Per un cazzo, per un power player dovrebbe essere. Tipo, io tutto ed è lì tipo, che ingiustizia. Ma tutto questa è una domanda. Sì. Gatta, tu che sei al decimo, quanto punti di vita? 102. Oh. Al 9 penso di averne 104. Salla. Salla. Salla. Io al 9, sai quanti ne ho? 12. 67. Ah, c'è cioè poi chi ce ne ha di meno adesso? Ma Vezza è tipo videogioco che torniamo no, full. Okay. È tipo videogioco che torniamo anche full? O... No. Sì, esatto. No. No, tipo i punti key spesi rimangono spesi. No, sì, rimangono spesi, sono okay, tipo... Mai dire mai. Però io adesso mi incantiamo di tiro... tiro il dado, Vez. Ho fatto 1, quindi prendo 5. Sì, meno 5. 7. Io ho 65 punti ferita. Grande, più per la metà. Esatto. Okay. Io tiro... Ah, qui è aumenta l'abilità. Ogni 5 più 2 7. Qui aumenta le scusa, caratteristiche. Caso. Beh, direi di sparare il definitivo 20 in destrezza. Ah, sì. Oh, mi piace. Ho preso l'aura di coraggio. Laura? Io ho l'aura. Una... Sei a 10 piedi, quindi entro due quadretti da me, io e i miei alleati non possiamo essere spaventati. Ma fisso o...? Se sono coscio. I tuoi alleati dipende se tu li consideri amici. Dice sì, friendly creature, quindi sì, i miei amici. Io e te siamo amici. Dipende. Ultimamente sì, dai. Mi hai regalato un mantello. Ok, allora io faccio... Comunque il guerriero è super sgravo. Anche Katta è super sgravo, solo che non lo attacca mai perché non lo riesce a colpire, quindi attacca... Funziona così. Già che ho, perché sono salito di livello, mi faccio Greater Restoration su di me. perché... No, perché... Ehi, scherzone. Io, Eric e Quake abbiamo dei punti ferita che non possiamo recuperare. E quindi devo fare Greater Restoration per poterli recuperare. E quindi ora Quake e Eric... Esatto. prima io, poi gli altri. Grazie. Ho solo un incantesimo di quinto. Adesso ho due incantesimi di quinto, ma uno l'ho usato oggi. E quindi ne avevo solo uno e lo uso su di me. Domani li userò su voi due. Forse. Non dà niente. A me è semplicemente aumenta la destrezza. Cioè semplicemente mi ho l'incremento di abilità. Vabbè, se qualcun altro si vuole lamentare. No, c'è la fila. Io salgo, cioè io divento solo fuori. Io non ho la scheda. Ha fatto la scheda. Non ha la scheda, per cui non sale, secondo me. Ti faccio una foto? No. No, ma non è per... Nella scheda del manuale comunque non posso scrivere. Sì, facciamo così, dai, non salire. Ma proprio mai. O qualcuno di voi ha voglia di scrivere? Dacci una penna. Penna, non matita. Questa è una matita. Ma rega, un più 6 al più sarà. Ok, ditemi. Cosa? Sono allontanato un istante. Allora. Quake. Philip, Eric, Arian, Quake 102 meno 14 per la sfiga. Philip 104 meno quelli che ho perso. Sì. Eric 34. Qualcuno scrive per me o salgo la prossima volta. I punti ferita te li scrivo io, ne 67. Tira un di 8. 8. I parziali erano 11 in meno. Sì, no, quelli li ho segnati. Tranquillo. Il di 8 ho fatto 1, quindi prendi 5. 5 costituzione? Prendi 5 più 2 di costituzione. 74. 74. Ah, ma scelto, tu ne hai così pochi perché sei due livelli indietro rispetto a loro. Sono all'ottavo, sì. Io sono 78. Rispetto a me, vabbè, ok. vabbè, sta cazzo. Tu sei, scemo? Io vado a 65. 65. Ovviamente meno quelli che ho perso. Ok. Quindi, Eric ne ha 11 in meno. 11? Sì, fissi, che devo farti recuperare con ristorazione. Anche la CD. Però adesso ne hai 34. Philip ne ha... Ah, vabbè, 34 più, più 7. Giusto, che sia quella la saggezza. In realtà potevo... No, va bene così. Philip ne ha... 89, 75... Quindi questo è tipo un livello perché abbiamo finito un capitolo, tra virgolette, o... Sì, in teoria... Ma Beth, quando volevi fare quella invece della serie TV? Te l'ha presa per il culo. Giulio. No, scherzo. Giulio. Boh, ci abbiamo provato a farla per dei mesi. Falle io, totale totale. Continueremo a provare. No, non lo so. Penso nei 41 adesso. A settembre. No, io, rega, non avevo io. No, no, ma infatti... 74. Non ce l'avevo così. 74, ok. È stata posticipata dalla rete. Io sopra e sorpresa a ottobre non riesco. A volo? Devo arrivare al nono. Posso muovermi su superfici verticali o sopra i liquidi senza cadere. Prima di arrivare. Lo so, ci pensiamo, rega. Cioè, se volete la possiamo anche fare, però. Figata, no? Tipo lo aggiro camminando sul tipo Prince of Persia. Come volete in realtà, possiamo anche fare. Intanto chiudiamo sta diretta se c'è ancora, non so. Sì, perché così. Non so voi, ma io sì, comincio a... Penso che abbiamo dato oggi. Wow. E se volete fare un po' avanti, possiamo andare un po' avanti. Però sì. Io sono sazio, verso due livelli. Basta, secondo me è stato divertente l'inizio. Scusa, spegni il computer e riproviamo. Non risolvo così tanto da quando Marco ha installato Fortnite. Vabbè, solo le mie disgrazie. Ma perché gli lagga o possono rendere la vita migliore alle persone? Non so, adesso vediamo, perché se adesso tre volte deve uscire, poi se l'hai sentito, l'ha detto Bethesda, deve uscire il prossimo Fallout. Se lo sarà un RPG multiplayer. Basta, anche se ho un'idea. Mi ha detto che deve uscire un gioco tutti gli anni con Elder Scroll. ci prego, Elder. Sì, io in realtà io sono super fan della saga di Fallout, quindi. Elder, sì, oddio, Elder. No, io Fallout. Sì, Fallout. Io ho una scimmia adesso che te la dico. Infatti io ricomincio il 4. Mi è salita la scimmia e mi rigioco il 4. No. Hai mai giocato a Fallout? No. E allora? Secondo te mi interessa? Sì. No. Secondo me sì. Qualcuno in questa stanza ha mai giocato a Fallout? Grazie. Mio fratello. Quale? Ma non mi interessa comunque. Il primo? Io il 3. Beh, almeno dal 3 in poi però, se no parliamo di poco, eh. No, il 3 è bello. Hai giocato il 4? No. È figo, eh. No. Te lo consiglio. Non mi è piaciuto neanche il 3. Bravo. Così quando si fa. Piccolo, guardalo, poi vediamo un tredicesimo di Laz. Potrebbe piacergli qualcosa nella vita. Sì, in effetti. È tutto una merda. La vita è una merda. Il mondo è una merda. Mezzo è una merda. Al quadrato. Va bene, ragazzi. Volevate aggiungere qualcosa? Qualche pensiero? Guardate sì, come la luce si riflette sulla... sulla lustrata di scena. L'aureola. Beh, cos'è che ha detto? Se lo può fare un riassunto di questa puntata, perché è corta. Va bene, l'hai detto, eh? La farai tu. No, no, mi prenoto io, cazzo, non ci sono mai. Se ci sarò, però, secondo ci siete di fila, lo farò io. Problemi tecnici fondamentale. Però li devi tipo recitare. Ah, Ah beh, tra quella, tra la scorsa che a un certo punto è impazzita, catta che sbadiglia. Vabbè, mezzanotte. Comunque da questa sessione abbiamo imparato che siamo alla ricerca di noi stessi. Questo l'avevamo imparato molto tempo fa. Comunque se guardi la chat, Vez, Sala ti ha dato un buon link, non so. Che il computer va acceso prima di mangiare. È un mezzo momento. No, ma il computer è acceso da ben prima. No, il problema è che è impazzito. Soprattutto è impazzito. Dobbiamo per fare la diretta di noi mentre mangiavamo. Vez, la foto del giorno direi che rimane questa. Ah, ma secondo me è la foto del giorno. In tutto questo il seme di pietra strano ha fatto qualcosa? No. Ah giusto, è vero, chi ce l'ha? Io. Vabbè, strano. Più che indagare siete andati dentro a spaccare robe. Vabbè. Ehi. Vabbè, dai. Va bene, dai, c'è stato breve ma intenso. Quindi breve. Breve per loro. E niente, molto intenso questo primo piano sfocato che ogni tanto si fuoca ma si sfoca di Catabriga. In Catabriga distrutto, possiamo forse chiudere la diretta. Ti mando la foto. Ma ve l'ho piegato, che cosa volete più? Ve l'ho piegato. Addio. E niente. Questo era l'ennesimo episodio di Tycoons & Dragons, che si chiamava Il Vecchio Viandante. Cosa sta facendo? Che non abbiamo incontrato. Ciao! Oh, Arvi! Ciao, Arvi! L'avete svegliato adesso? Ha la felicità di Laz, però al quadrato. Però almeno, però almeno lui non rompe le palle come il padrone. Penso che era tutto lo zero. Perché non lo sentiamo, perché non capiamo il suo linguaggio, ma le battute sono quelle. Va bene, vi salutiamo, vi ringraziamo quei pochi di voi che ci hanno seguito, ci scusiamo per i problemi tecnici, vi scuso per i problemi tecnici, e speriamo di risolvere la prossima volta, anche se a questo punto ne dubito. E non era segnato. Beh, Salla la soluzione è facile, solo che non lo vuole ammettere. Apple Store. E a questo punto anzi, se volete devolvere sul nostro canale una... se volete aiutare un pezzo, non andiamo su Twitch che ci sono le, come si chiamano, sai cosa, le donazioni su Twitch. Facciamo una raccolta fondi. E a questo punto vi salutiamo e vi diamo gli appuntamenti alle prossime volte in cui morirò, cioè alle prossime sessioni di Tycoons & Dragons. Continuate a seguire. Io volevo dirvi che... Ah, vuoi dire che no, no, no. Allora, ciao. Lo diciamo in offline. Vuole darci punto esperienza. No, solo per quelli del podcast. Hanno le arte prime. Direi che io in realtà sono sempre, tranne... Vabbè, l'anno prossimo, perché sono in vacanza. L'anno prossimo, se sei? Sono in vacanza. Io la prossima ancora ci sarei domenica, lunedì, martedì, mercoledì, direi, ok. La prossima intendi questa settimana? Questa che arriva. Io quella che arriva dal 13 non ci sono. Tocchi però il calendario. Cos'è? Domenica 10 o domenica 16? Io ci sarei domenica 10, 11, 12, 13. Secondo me è martedì. Allora io sarei... Ah no, oggi è martedì, scusami, allora sì, hai ragione. Forse. Faccio un gioco. Forse il 17, ma non sono sicuro. No, oggi è... Sì, è già martedì 5. E poi da... dalla prossima in avanti, sì. È molto probabile che ci sarò sempre domenica, lunedì e basta. Vabbè, lunedì 11? Vabbè. Ecco, no. Come no? Hai detto domenica non ci sei? No, io sono via fino a lunedì. Beh, forse lunedì sera potrei provare a esserci. Martedì 12? No, vabbè, secondo me possiamo fare lunedì 11 e poi se arrivo tipo a pecora, tanto faccio quello che faccio di solito. Stai in un angolo. Okay, hai detto che sei anche martedì 12? Ah, io sì, io sono via solo sto weekend e poi una settimana in luglio e basta. Se no teniamo martedì. Martedì farei fatica perché il giorno dopo la mattina dopo avrei una ferie, quindi sarò qua tutta l'estate. Io in estate questi sarò solo domenica lunedì. Vedete voi se ce la fate, se no fate voi altri due. Andiamo con quello che riusciamo. Allora proviamo per l'11. Vabbè, per ora rimaniamo. Non ho capito. Beh, tu come sei messo per continuare D&D? Possiamo continuare. Se poi io, come sempre, se c'è un gioco da alternare, preferisco, però mi pare di capire che non ci sia, per cui andiamo con questo e vabbè. Possiamo fare un'altra, una roba nuova, tipo. Non so. Alba? Alba di Cthulhu. Tipo un'altra campagna di D&D. No. Questa fa schifo. Questa fa schifo. Tipo. In agosto esce The Silence of War. Tipo? Cos'è che ha detto? Il gioco di Giulio. Io non riesco. Non ce la fa, non ho il tempo di studiare i manuali. Per One Ring è facile. Per andare in bagno. No, per andare in bagno ce l'ho. Anche per venire a giocare qua. Però. Per studiarmi 400 pagine di manuale non è esattamente il periodo giusto. Se no, c'è anche cani, ma secondo me i cani non mi piace. Perché sono già detto. Ragazzi, ma non avevamo già deciso. Al massimo io posso farvi giocare a Star Wars perché conosco già le regole. Ragazzi, ma non avevamo già deciso per avventure in prima serata. Sì, ma Vez mi sembra deficiente. No, se volete lo facciamo. Vabbè, perché, vabbè. Perché hai detto che Vez è deficiente? No, oh. Così passiamo da Master Vez a Master Vez. No, se volete lo facciamo. Il problema di quella cosa lì è che io avevo capito che a voi non ve ne fregava un cazzo. Ma in realtà ci siamo sbattuti un sacco a trovare ambientazione. Sì, tutto. Ma quanto pare... A me non piace quello che è stato scelto. Esatto. A quanto ho capito tutti eravate scontenti su quello che era stato scelto. Beh, scegliamo qualcos'altro. O facciamo una cosa completamente diversa. Ah, per i punteggi. Vabbè, scegliamo qualcos'altro. Se siamo tutti mezzi scontenti, scegliamo qualcos'altro. Cioè, non è quello il problema. Raga, avete scelto voi. Sì. Allora, premesso che siamo arrivati a un ballottaggio, nella votazione precedente io avevo appoggiato anche la tua idea e sono stato un grande fan della tua idea. Io so benissimo che ha votato sì, perché il voto era segreto, ma fino a un certo punto. Ma non per me. No, sì, l'ho votato anch'io, certo, però possiamo cambiare, cioè non è che... Cos'è, la piattaforma Rousseau? Cioè, se il problema è quello, cambiamo, per me è problema zero. Cioè, ti ho detto... Per me è un'alternativa valida, valida, valida, è una cosa stile crime, magari se poi ovviamente buttato sul ridere, che secondo me è... Vabbè, ma rideremo per... La nostra. No, ho per visto la prima stagione di Ash vs Evil Dead. Ah, sì. Che è arrivato su Netflix. Vabbè, io ho visto la prima perché è arrivata adesso su Netflix. Ma che è la seconda, dai. Va bene. Cari amici del podcast, una cosa così dobbiamo è stato fare. Un piacere anche per voi, anche per noi, per voi, per noi non lo so. Ciao.